Buon pomeriggio, ben trovati, bentornati, ben sopravvissuti a questi primi giorni di festival. Io sono Rosa Coppola e siamo nuovamente in diretta dal Centro Diurno di Salute Mentale che ci ospiterà per tutta la durata del festival. Oggi sono in compagnia di tre duo, che è già abbastanza interessante come formazione, e cioè Lea Barletti e Verna Vass, che hanno portato la loro Antigone, Wenzel Fuchs, nein. Ah, ok, Wenzel und Federico Fuchs de Schwind, come se fosse un unico nome lunghissimo. Volevo darvi un'identità autonoma oltre che una di coppia, ma vabbè. E Valeria Caboi e Manuel Pignero, che invece hanno portato un lavoro intitolato Nulla Concreto. Invece Wenzel e Federico, prima che mi perdessi per la lunghezza del nome, hanno portato un lavoro intitolato On the First Night We Look at the Maps, Los Alemanes del Volgas. Ok? Gut. Non parlerò in tedesco, mi dispiace, so che tutti lo desideravate, ma non succederà. Però quello che farò sarà, ovviamente penso che Wenzel e Federico vorranno parlare in inglese, qualsiasi cosa, io proverò a fare sempre un raccordo di quello che ci diciamo in italiano e al contrario fare un raccordo di quello che accade a voi in inglese, così diciamo gli spazi di comunicazione sono più permeabili. Vorrei cominciare chiedendovi, ovviamente, innanzitutto sempre di presentarvi e dire chi siete. È un po' alienante dire tutte le volte chi si è, però effettivamente le persone non ci vedono e quindi dobbiamo pure aiutarli a orientarsi. E appunto vi chiederei di presentarvi e di raccontarci brevemente come sono nati i lavori che avete portato qui quest'anno. Is it okay, the question? Okay, but you are bravissimi in Italian. We say all the time. Maybe... allora, sono Lea Barletti, di Barletti Vass. Dunque, il lavoro che abbiamo portato quest'anno ad Altofest è Antigone, di Sofocle. Non è una riscrittura, è il testo originale, cioè tradotto, non in greco antico, tradotto peraltro in due lingue, non solo in italiano, ma lo spettacolo è bilingue, quindi è in italiano e tedesco, in due traduzioni molto diverse tra di loro. È nato... lo spettacolo è nato, l'idea dello spettacolo è nata durante il primo lockdown. Noi viviamo a Berlino. È nata semplicemente: hanno chiuso i teatri. Bella idea, facciamo teatro nelle case. E dopodiché hanno chiuso anche le case. E quindi l'idea è rimasta un'idea. Però noi comunque lo abbiamo prodotto, cioè l'abbiamo messo su durante, appunto, stavamo a casa, chiusi, e abbiamo lavorato per metterlo su. Abbiamo fatto un piccolo crowdfunding anche, spinti da degli amici non artisti che volevano aiutarci. E così abbiamo iniziato questo lavoro. Dopodiché, appunto, non è stato possibile, è rimasto un po' tipo nel cassetto, e poi invece quando si è... tra virgolette un po' normalizzata la situazione, abbiamo cominciato a portarlo in diversi appartamenti nella stessa identica maniera, cioè bilingue sempre, sia in Germania che in Italia, perché l'abbiamo concepito così, in modo che praticamente si parlino due lingue, e sono le due lingue di Antigone e Creonte, non si capiscono di loro perché parlano due lingue diverse, e diverse non solo in quanto tedesco e italiano, ma una è il tedesco nella bellissima versione di Hölderlin. Vero, molto bellissima, l'ho visto oggi ed è veramente una grande lingua. Lingua dell'Ottocento, e invece io parlo in italiano in una traduzione che abbiamo commissionato appositamente ad un giovane drammaturgo e poeta italiano che si chiama Fabrizio Sinisi. Perfetto, grazie. Ciao, sono Valeria Caboi, sono qua con Manuel Pinheiro. La nostra performance è multidisciplinare di suono e movimento, musica e danza. È nata in realtà poco prima della pandemia e poi è stata bloccata, cioè il suo sviluppo è stato interrotto dalla pandemia. Ed è nata in un momento particolare in cui eravamo appena diventati genitori, quasi. La nostra piccola Camilla aveva 6 mesi e quindi ancora non andava a scuola, e quindi noi abbiamo fatto le prove in piccoli tratti di 20 minuti in cui lei dormiva e poi interrompevamo per stare con lei e poi si è addormentata di nuovo, via, prove di nuovo altri 20 minuti, ed è così che è nato il nostro pezzo. Yeah, I'm Federico Fexeschwind. So our work was born together with our relationship. So we are a couple, we're also married, and it was born around 2015, I think almost the very moment we met, because this meeting of us together from a German person with me, who I am from Argentina, made us want to research in the history of our families to see what was there, if there was something there that could somehow connect us, or maybe not in some way. And that's how the work was born in this way. Yeah, I'm Wenzel Fuchs-Deschwind. And so over a duration of 4 years, always a bit working on it, but then we had other work to do, so I also got employed for some years in between. So over 4 years we were working on this piece, and then just in autumn 2019 we premiered the piece and had, I don't know, until the pandemic started, almost 10 performances of it. And then there was this very long break, and we, as in our performance, in the original version, we were sitting with 10 guests together around one table, super close to each other, even drinking together from one cup of mate tea, and all this was then not possible anymore. So we had already, during the pandemic, to adapt the piece and to make it a bit bigger, and with a table 5x5 meter to also have enough space between people. So there were different shapes of this piece, and so we brought it now here in a private home, which was for us super, super interesting to rethink it for this version here, for this translation. Because the original idea actually was to create a piece we could just have in one luggage and carry it wherever in a house with a big table. But then the circumstances were like, oh no, we do it now in a theater. And so now from this very first idea, it was super nice here at Altefest to have had the chance yesterday for the first time to try it really in a private house with the audience in the living room. Mm-hmm. Okay, so... La prima cosa che mi viene da sottolineare appunto è questi processi ricchi di costrizione nella nascita di questi lavori. Forse farei, prima di cominciare con i miei svarioni personali, farei un altro giro molto breve per chiedervi qual è stato, un po' prendendo spunto da quello che diceva Wenzel prima, e cioè che... Mi chiederei appunto qual è stato l'aspetto più problematico nella riscrittura per Altefest del lavoro, considerando che voi venivate da un lavoro comunque nato nelle case da portare in una casa, quindi una sfida, diciamo, della radice quadrata. Wenzel appunto un po' già ci ha parlato di quali erano le difficoltà appunto di riuscire a riadattare proprio la geometria e la geografia del lavoro in una casa vera, intima, sconosciuta anche, o comunque abitata nel mentre. E invece voi avete avuto la difficoltà di essere in un ambiente pieno zeppo di roba, cioè proprio Questo vi ho un po' anticipato la risposta, ve l'ho data io, ma perché ne avevamo parlato, quindi sapevo che era un po' quello, quindi magari passo la parola a Valeria Caboi e Manuel. Grazie. Sì, hai anticipato la risposta. Aggiungo anche che soprattutto per me, fisicamente come danzatrice, sono abituata a una pratica fisica quotidiana, diciamo, e ho molto bisogno del contatto col pavimento. In un ambiente intimo di una casa, appunto, con tanti oggetti da rompere, con tanti oggetti, con tanta, anche con tanta polvere, perché è impossibile in uno showroom stare, che tutto sia sempre pulito, no? Quindi io penso di aver passato all'inizio più tempo a togliere polvere che nella mia pratica fisica, e non mi sono mai sdraiata per terra. Pulire è una pratica fisica molto intensa, sì, è vero. Ed è entrato, questo è entrato a fondo a far parte del pezzo, anche perché poi a un certo punto Giuseppe, il nostro ospite, ci ha proposto, ci ha detto: c'è lì un cubo, non so che volete fare, lo butto, non lo butto, lo volete usare? Ok, dai, proviamo a usare il cubo. Quello che è successo, il risultato è stato che io non sono mai uscita da questo cubo durante la mia pratica fisica, perché un cubo che da un angolo all'altro ci sta giusto giusto la spina dorsale. Quindi ho provato a fare il mio riscaldamento tutto sempre su questo cubo, per non dover sempre spazzare per terra. Poi c'è anche un cane bellissimo, che sarò tristissima di andarmene per Lupita, perché la dovrò lasciare. Ci siamo affezionati molto, però sapete come, no, quando si ha un cane, peli per terra, è normale. E quindi è stato, insomma, mi sono riadattata alla mia pratica fisica, oltre che riadattare lo spazio per il pezzo, ovviamente. Comunque tutto questo è stato una ricchezza, cioè adesso parlandone ora, è stata una ricchezza per il pezzo, senza dubbio. Potete anche scambiare la figlia con il cane. E la lasciate a Giuseppe. E voi... Abbiamo pensato, meno male che l'hai detto tu, perché dirlo io sarebbe stato brutto. So, ci siamo date una mano a vicenda in questo giro di botte e risposta. Poi chiederei anche a Lea e Werner. Oddio, Werner e Wenzel nello stesso giro è veramente complicata da gestire, però vai, prego. Lea o Werner, per favore. L'unico vero problema nostro era il buio, perché lo spettacolo è pensato per uno spazio al buio, però qui fa un sacco caldo, la casa non c'ha spazi veramente grandi, è molto ventilata la casa, ma se poi lasci le finestre aperte entra la luce dappertutto, fa buio molto tardi, e quindi dovevamo trovare soluzioni per questo problema qui. Che nei tre giorni erano soluzioni diverse. Insomma, diciamo, il primo giorno non ci ha un po' fregato il tempo, no? Cioè, siamo stati troppo veloci, il buio è sceso troppo tardi, quindi abbiamo dovuto fare un po' finta di, insomma. Poi il secondo giorno era perfetto, però c'era il temporale, che abbiamo fatto due allestimenti, uno dentro, uno fuori, insomma, anche lì qualche problemino c'è stato, e oggi invece ci siamo decisi di entrare dentro sul suggerimento di Alessandro, del nostro ospite, di farlo nella sua camera da letto. E niente, aria condizionata a palla, insomma, hanno detto che faceva fin troppo freddo. Sì, alcuni, dipendeva dalle posizioni, io c'ero, e ognuno aveva una sua difficoltà. Per il resto in realtà non c'era, perché... è pensato come spettacolo da fare in spazi molto diversi anche tra di loro. Non ci serve, cioè, siamo alla proprio la cosa più elementare, ci servono 2 metri per 2, insomma, poi in fondo una presa di corrente e basta. E buio, è il buio. Ma il buio, guarda, che è una cosa complicata, sì, se non c'è la naturale, da fare artificiale. Quindi in realtà... Do you want to say something more about the challenging aspect of being here? Yeah. Or okay? Yeah, there were. I think there were two main challenging aspects for us. The first one is that we imagined there would be a big table because the show was usually performed at a big table with everybody sitting. And when we arrived, we discovered that this house had a table for four people, or a bit more actually, but it wasn't a table for 15 or for 20 people. For all traditional families. Exactly, yeah. So it was a table of a smaller family, let's say. So this was the first challenge. At the first days, we were like, okay, maybe we can bring a few tables together from the house to make a bigger table. And we tried a bit this. We didn't really manage to try it because I was feeling like I wanted to respect the space as it was of the living room as much as possible. I felt it would be a pity if we just made it too easy for us, if we just tried to make a big table and do it as we always did it. I felt that the challenge of Altofest was actually to see what we can do that is not exactly the same with us. So it felt a bit pushing this. Mm-hmm. So we really, really, really changed a lot the way we use the space, and we decided to use the whole living room for the performance. So this was the first challenge. And there was a second one, which was the language. Yeah, as our piece originally is thought in three languages already, so the three languages we are speaking also within our couple, we got to know each other speaking English with each other, then we started to learn each other's mother tongues, so Spanish and German. So also the piece itself was considered to be in these three languages, but mainly in English. And we felt a bit like, okay, it might be difficult to connect with the people being our guests in this performance if you mainly speak English. And so we decided, okay, to take the challenge to add some parts in Italian. Mm-hmm. And this was really, I studied for 2 years, for two semesters in Rome, but 10 years ago. So after I started to learn Spanish, all my Italian went away. And now, these days, being here, it's just all a super weird mixture of both languages I'm speaking. So it was really a challenge to translate. We did it with internet help now, and then with the help of our space donors, we checked if everything makes sense. Mm-hmm. And but then to decide first which information needs to be in Italian so that people who don't understand so well English can get the most important information, because it's a piece also containing a lot of information which is necessary to understand, to follow its run. It's a language-oriented dramaturgy, yeah. Can we say it like that? Yeah, absolutely. Okay. And so this was a bit like to add a fourth language in this mm-hmm. piece, which was already composed for three languages. That was a challenge. Okay. Yeah. Riassumo brevemente quello che ha detto Federico, perché in realtà, scusami, Wenzel e Federico insieme, mi confondete voi due, perché è un ottimo assist a quello che, almeno le prime cose che io ho notato rispetto ai vostri lavori e che credo che i vostri lavori condividano, e cioè rispetto alla domanda che avevo posto prima sull'aspetto più comunque difficoltoso o stimolante anche del lavoro di riscrittura in residenza per Altofest, Federico e Wenzel evidenziavano due aspetti, uno principalmente architettonico, poiché il loro lavoro ruota attorno a un tavolo, che è un tavolo anche simbolico, e il secondo l'aspetto linguistico, perché il loro lavoro si muove già tra tre lingue e in questo caso si sono trovati ad aggiungerne una, che era la lingua della casa che abitavano. A tal proposito, comincio un po' a entrare nel vivo dei miei svarioni e la prima cosa che mi è venuta in mente pensando ai vostri tre lavori insieme è che condividono una sorta di materia migrante. E c'è un fortissimo lavoro sull'intermezzo e sull'isolamento, cioè, credo, almeno questa è la mia impressione, poi spero anche che mi contraddiciate, perché altrimenti è un po' noioso per me avere sempre ragione, anche se ci provo ad averla, però appunto mi è sembrato che ci fosse questa ricerca di raggiungere un momento, una figura, un attimo in cui tutti i livelli e tutti i linguaggi che state usando, sia nel caso di Fuchs de Schwind, sono la storia individuale e la storia collettiva insieme alle lingue e alla storia appunto personale del vissuto. Nel vostro caso è proprio l'uso della lingua e del ripulire anche la tragedia, cioè proprio il genere tragico di un'impostazione particolarmente ornamentale. E nel vostro caso è proprio l'interazione, almeno secondo me, tra suono e movimento. Si creano delle zone di confine in cui i vari codici che si stanno incrociando perdono i loro contorni e diventano un unicum. Questo è stato molto bello da osservare, innanzitutto. Non so se è un aspetto su cui voi avete posato consapevolmente l'attenzione o è un effetto di altro che è venuto dopo, se è qualcosa che appunto avete constatato a posteriori, se non l'avete proprio constatato e ci state pensando adesso. Comunque sì, insomma, mi farebbe piacere sapere come la pensate rispetto a questa cosa. Chi comincia? No. Possiamo prenderci anche un tempo per pensare, breve, perché siamo in radio, poi comincia il film di Giuseppe Valentino. Me la riassumi? sì, vero, mi sono un po' persa. Quest'idea di materia migrante, che però non è una cosa che non ha un contorno e basta, cioè uno sfumato. Mm-hmm. È un intermezzo visibile in cui i codici che ognuno di voi usa e mischia, per degli attimi diventa qualcos'altro, dato dalla somma di queste cose che si stanno incontrando. Ho capito. Nel nostro caso io credo che questa cosa, questa tua notazione venga da, soprattutto, non solo, ma soprattutto da questo entrare e uscire nella tragedia, nell'affondo tragico, no? Quindi noi facciamo questa introduzione che è molto quotidiana, molto, molto quasi didattica, diciamo, no? In cui raccontiamo la preistoria, l'antefatto della tragedia di Antigone in una maniera molto diretta e molto comprensibile. E questo ci piace proprio, cioè è una cosa che ci interessa, il fatto che è un modo come per vedere, per prendere un po' di distanza, no? Vederlo da fuori e poi entrare dentro, invece che iniziare con la tragedia al buio. E qualcuno potrebbe dire che è quasi spoetizzante, ma secondo noi è appunto quelle zone di passaggio, la zona di passaggio tra una cosa, tra un modo e l'altro, secondo noi aiuta invece poi l'affondo nel tragico. E questa cosa poi la facciamo anche verso la fine, no? A due terzi della tragedia interrompiamo, qualcuno ha detto anche in maniera abbastanza così, insomma, di rottura, anche perché dopo una scena piuttosto forte emotivamente, interrompiamo di nuovo, riaccendiamo, oggi abbiamo aperto la finestra e alla luce facciamo il riassunto di quello che poi non andiamo a fare. Ecco, questo ci interessa a noi, questa possibilità di entrare e uscire. Però la mia domanda, scusami se ti interrompo, sì, era più legata a, per esempio, voi fate questo gioco con le luci, no? Sì. Voi vi sdoppiate e la luce vi guida da, sì, un lato e dall'altro. Ci sono dei momenti in cui la luce è ferma in mezzo e quello è proprio il frame esatto di questa cosa che io sto provando, cioè non riguarda unicamente la struttura, che tipo di lavoro si fa sulla tragedia. Io credo che questa è una cosa che è una pratica che ritorna nei corpi in scena ed è lì che secondo me succede davvero, cioè un po' tutti i puntini si ricollegano in questa cosa molto piccola e cioè proprio questi frame qua secondo me sono quella materia migrante. Allora, non so se ho capito, comunque è stato pensato anche molto per primi piani, no? Mm-hmm. Quindi in questo senso di concentrazione, di vicinanza, no? Di vicinanza e quindi di possibilità di osservare molto da vicino qualcosa che di solito, quando si assiste a una tragedia greca, si osserva da molto lontano, cioè i teatri greci sono fatti insomma per tutta un'altra gestualità, tutta un'altra portato, tutta un'altra dimensione. Con noi ci interessava questo frame, questo primo piano, questa possibilità del primo piano, perché la tragedia fondamentalmente per noi è interiore, cioè non è tanto un dissidio tra due posizioni, no? Tra me e un altro, ma innanzitutto è una ricerca di un equilibrio o comunque di interno, no? Di andare prima un po' da una parte e un po' dall'altra, di ricercare quello che io faccio quando faccio Ismene Antigone, e che proprio cerco la mia parte Ismene e la mia parte Antigone. Ecco, questo forse è più migrante. Mm-hmm. Tu sai rispondere meglio? Ringrazio Lea Barletti, perché noi ci dobbiamo sempre presentare. Io ricordo questa regola orribile, ma necessaria. No, niente, solo che ieri Lea aveva, parlando dello spettacolo di ieri, aveva messo l'accento proprio sul passaggio tra un personaggio e l'altro come punto molto importante, no? Che come dove si scopre qualcosa che va veramente al cuore della tragedia, no? Quel passare dentro di sé da un personaggio al suo opposto, al suo specchio, al suo doppio, insomma, quello forse è quello che tu intendevi dire. Sì, proprio il passaggio. Il passaggio, cioè non i due poli dell'oscillazione, sì. È proprio quello. Che dove poi si scontrano anche le lingue che mettete in gioco. Cioè quella distanza, plasticamente io la ritrovo quando a metà del movimento della luce. Però è una cosa super raffinata, cioè non so. Ti ringrazio, una cosa così, ti ringrazio, io sono so fatta così purtroppo. Che non so fin dove si può capire. Invece per esempio nel vostro caso, sto parlando appunto con Valeria e Manuel, queste zone ibride si vengono a creare, almeno secondo me, da un punto di vista quasi orizzontale, cioè come se ci fossero dei diagrammi paralleli che a un certo punto poi si uniscono e uno non capisce più dove è il bianco e dove è il nero, e poi dopo si riprendono vita. Non so voi come la vedete, se è stata appunto una cosa, cioè mi interessa sapere se è uno svarione mio o è una cosa su cui avete lavorato. No, no, stai bene, tutto a posto, hai capito. sono Valeria, ripetere sempre. Sì. Nel nostro caso hai parlato di poli dell'oscillazione, no? Due estremi. Nel nostro caso penso che i due poli dell'oscillazione siano il fatto che partiamo da gesti quotidiani, da suoni concreti registrati proprio nella città dove stiamo facendo la residenza. Quindi cose molto concrete del quotidiano, e l'altro polo è l'astrazione totale, la musica, la coreografia. E questi gesti si trasformano pian piano in coreografia, mentre i suoni concreti si trasformano in musica. Solo che questo non avviene appunto bianco e nero, ma avviene attraverso la ripetizione e la crescita fluida e lenta, no? Quasi, i commenti che abbiamo avuto in questi giorni sono stati che uno quasi non si rende conto come ci si è arrivati lì, perché è stato abbastanza graduale. Però nel mezzo ci sono dei momenti di rottura. Fai dei cenni con la testa. Perché non Manuele è un po' confuso con le lingue, però questa cosa ne abbiamo parlato tanto insieme. E poi ci siamo anche scritti delle cose insieme, quindi io parlo per entrambi, non vi preoccupate. L'accento sardo portoghese. Non so se vuoi spiegare tu questa cosa della frammentazione. No. No, va bene. No, ma basta, Manuel. Non vogliamo molestarti, questo comunque è un luogo. Però siamo nel contesto giusto, perché qua tutti non capiamo, cioè parliamo 18 lingue, non capiamo, non stiamo capendo niente. per dire quello che dicevo, per citare Corradino ieri. Ti ringrazio. Yeah, so this intermezzo is very important in our piece, and it's all the time there, no? And above all in the question of identity, as a foreigner who doesn't live anymore in the country where I was born, no? You move to another country and there is no going back. I mean, you will always live in this intermezzo for the rest of your life. You can never go back to your country, you're never in the country where you were born. Even if you went back, you're not the same person because you made another experiences. And our piece is constantly crossed by this intermezzo. So it's everybody in the piece is somehow living in this intermezzo. And I think this intermezzo, this sort of, which is painful too, no? Because we're always searching for so one thing that's okay, this is the thing, this is what I am, no, this is not, this is this. But I think there is something, this intermezzo that allows a form of better living together, a better living together among the people. I think the intermezzo is less violent. Everything that's not intermezzo, that tries to say this is this, contains some form of violence. So I think that's the concept of intermezzo in our piece, that we want to say this intermezzo, it is part of, not only for foreigners, I think we always also say it in the piece, Wenzel was born in East Germany, but East Germany doesn't exist anymore. my grandfather was born in Argentina, but he's always thinking of Russia, of the Volga. Mm-hmm. Everybody is in sort of like in between, mm-hmm. let's say. And this is a very important concept for us. Voi continuate a darmi degli ottimi assist, perché riassumo anche brevemente quello che diceva Federico. Questa la posizione dell'intermezzo come condizione non solo di chi è straniero o comunque vive nella prospettiva del viaggio, e quindi anche se torna non è più lo stesso ed è sempre un po' spezzettato in tutti i luoghi che attraversa, è una condizione molto legata al rapporto completamente bipolare, possiamo dire, che abbiamo con la questione identitaria, quindi con il definirsi, che appunto diventa una forma di violenza, diceva Federico. Questa cosa, secondo me, questa questione dell'identità, soprattutto sul piano estetico, proprio in virtù di questo fluttuare tra diversi codici, a me apre una questione molto importante rispetto proprio al momento che stiamo vivendo, che è un momento in cui l'identità è la prima merce che noi vendiamo. E il nostro autorappresentarci costantemente, anche al di fuori della scena, nella vita, è una merce nemmeno di scambio, ma proprio una merce in vendita. Come la vedete voi? Nel senso, come questa cosa può integrarsi in un discorso artistico che, me l'avete confermato voi prima, si muove anche per intermezzi? Cioè, qual è poi, secondo voi, il potere della creazione o del ricreare o di vivere per intermezzi, nel combattere anche un po', se si vuole, non per forza, questo commercio di identità? Allora, è una questione centrale, soprattutto. Sono Valeria Caboi, nulla concreto, Manuel Pignero, Valeria Caboi. Penso che questa sia una questione centrale, soprattutto in contesti come questo, in cui l'opera è costretta a essere riadattata. E quindi l'identità dell'artista si fonde un po' con l'identità dell'opera, cioè si è costretti a decidere quanto questa è la mia identità e questo non lo cambio perché fa parte della mia identità, e quanto posso cedere per adattarmi a questo ambiente. In realtà io penso che l'opera e l'artista debbano essere due cose distaccate, cioè l'opera è una foto dell'artista in quel momento, degli artisti nel nostro caso, in quel momento, e bisogna anche avere il coraggio di non stare sempre a cambiare. Chiaro che ci sono delle influenze e modifiche che avvengono al momento sempre, soprattutto in opere come la nostra che ha una, un'influenza etnografica che entra dove entra la città del momento, certo, però secondo me bisogna, ieri si parlava di andare a casaccio, no? Di improvvisare, perché così l'opera rimane viva, ed è vero, però secondo me il coraggio dell'artista è anche decidere, avere il coraggio proprio di definire, lasciare andare l'opera e dire ok, adesso l'opera è questa e io vado avanti, anche se me la porto dietro e la vendo, appunto, questioni commerciali, vendere, esporre, significa anche distaccarsi, anche con mantenendola viva con le piccole modifiche del momento, quanto io sono disposto a identificarmi, a esprimermi con quell'opera come una foto di quel momento, e poi io vado avanti e l'opera è quella, io vado avanti con altre cose. No? Sì. Sei d'accordo? È d'accordo. Io sono il nulla. Lui è il nulla, io sono concreto, capito? So I'm Federico from Fechtesschwind. Yeah, actually, I think last night we were talking between each other after the performance, and we were saying something very similar, that that when, also with Rosa, but also between ourselves, yeah, the piece is bigger than us. No, we also try to create something that's not just us. We're not selling ourselves. If we are just selling ourselves, I don't think we are so interesting. I don't think we as individuals, our past, our biography, if it's just in itself and it's not trying to talk about something bigger or is trying or having some distance. I think this distance is also important. I think that's maybe the difference where it becomes a product or not a product. I think it's, yeah, I totally agree with Valeria. It's about going beyond, starting from yourself, but also being going beyond yourself. Thank you. Yeah. Non so, in realtà la vendita di me stesso come identità non mi interessa proprio, cioè è una cosa che mi sembra molto lontano da tutto quello che vorremmo fare qua, insomma, anzi andiamo proprio nella direzione opposta di dire che noi siamo altro da quell'identità piccola, insomma, che potremmo magari mettere sul mercato, ma possiamo accedere a un sapere o a un flusso, a una coscienza, a delle problematiche di cui non siamo nemmeno consci a livello identitario, ma che portiamo dentro come materia che può risuonare, che può materializzarsi se uno si affida, in questo caso, a delle parole che riescono a innestare questo meccanismo. Insomma, tragedie greche non per niente resistono nei millenni, insomma, perché risuonano in ognuno di noi in maniera particolare, e ognuno di noi porta dentro il germe o le tracce o quello che è rimasto e che rimane sepolto dietro tutte le contingenze così dell'attualità, dell'io, di tutta quella roba là di cui è talmente piena la vita che non vorrei ritrovarmela anche nell'arte. Insomma, anzi, il lavoro è semmai di togliere tutto quello che porta a me o a quell'io lì, che mi sembra di aver capito che tu dicevi che è quella cosa là che si deve vendere, insomma. Quindi sono contrario. L'aboliamo, facciamo un editto. Che dici? Yeah, I know, I just wanted to add that there is sometimes in the media, in the social media culture, I mean, we have nowadays a big market of identity in Instagram and all of these things where the identity is constantly being sold. And it's interesting to note that most of the times in this social media or in these markets of identity, you have to be constantly producing something new all the time, because if a form emerges, if a form takes form, it's already beyond yourself. It's already part of the past. And there's a big fear of form, actually, in this market of social media. You will see that there is all the time about the new, you know, because the market is all about always producing the new, never repeating. It's quantity. Yeah, it's about quantity. Quality. It's about always the new production. It's on the compulsion of production. This is put, no? And everything that's even a great tragedy. No, we don't do any more tragedy because, I mean, of course we need to do it, but at the same time, it seems to be part of the past because it's a form. It doesn't. It's not about me anymore. Mm-hmm. And I think there is a big resistance, and in the sense, I mm-hmm. think it's really, really good to continue resisting by also doing these forms of art, which say, hey, we are not so important. There is something much bigger. I mean, there were 3,000 years ago, there were people, and they were just like us, and they also disappeared, but we are still part of them. And I think it goes beyond the ego in the sense. And that's really, really, really important. Non so se qualcuno tra i presenti vuole intervenire in queste discussioni. Io guardo un po' Maurizio perché abbiamo toccato un tema economico. Quindi non so se ti va. Vabbè, tu sei venuto, colpa tua. Scusa. Posto al sole, perfetto. No, certo, questa mi è molto, insomma, sto riflettendo su questa cosa di Werner, che credo che lo spunto, ma non so se lo interpreto correttamente, fosse quella che di fatto c'è un mercato che è dato dai social, eccetera, che porta effettivamente a vendere bene l'identità, anche al di là della volontà dei singoli, no? Cioè l'identità diventa parte del prodotto, giusto? Mi segnalano dalla regia che condividono. Peccato, pensavo che collegassi al discorso, vabbè, è un intermezzo, è un frame. Ok. No, e c'è tanto, cioè anche la narrazione, no? Che è l'elemento costitutivo del teatro, e adesso fa parte addirittura delle tecniche, cioè non adesso, ma insomma da tempo, delle modalità di vendita di qualsiasi merce. Quindi sarebbe anche abbastanza strano che nel mondo del teatro questo, volenti o nolenti, non fosse un elemento poi anche per la vendita. Lo so, è una brutta parola, però torniamo al pane. No, anche perché aggiungo brevemente, così ci avviamo alla chiusura, che noi oltre a vendere identità consumiamo le identità degli altri costantemente. Certo. Quindi cioè, mi sembra un rapporto dialettico rispetto a queste due cose. Quindi è interessante capire come, almeno in questo contesto, come l'atto artistico interrompe un po' questo, sì, o come, perché la domanda è sempre come si può interrompere questo circuito di produzione e consumo di identità, di pensiero, di... Ma no, se vuoi aggiungo solo una cosa, perché ne abbiamo parlato inserendo un elemento anche nel foglio del Fest, no? Su un dibattito che c'è soprattutto fra economisti africani, non solo, ma soprattutto proprio sul tema dell'identità, e che, riassumendo proprio i minimi termini, potrebbe presentarsi così, che c'è una scuola di pensiero che dice basta con questa storia dell'identità. Tra l'altro a noi ci hanno sempre definito per mancanza, quello che non siamo, no? I paesi sottosviluppati, e addirittura la loro identità è diventata quella. Per cui alcuni di loro dicono smettiamo, non esiste l'identità, non esistono le patrie, siamo nati per caso in un luogo, ma questo non determina identità, non solo amor di patria. E questa è una posizione, no? Per cui le identità in un mondo come quello nel quale stiamo vivendo sono mobili, no? Si contaminano, si sporcano in continuazione, si mischiano, eccetera, eccetera. Proprio all'interno dello stesso movimento c'è qualcuno che invece dice, però attenzione, accettare totalmente un discorso come questo ci indebolisce, certo, come comunità. Vabbè, era un po' anche il discorso che facevamo ieri, cioè non possiamo andare completamente a casaccio, minimo... No, sì, no, non lo so se si può, però... Io sì, mi prendo questa responsabilità. Muoversi in uno schema con libertà, sì, forse potrebbe essere una via, no? Ma risposta è difficile trovare. Non so, a voi come risuona questa questione? Se risuona, perché poi se non risuona ne mettiamo in mezzo un'altra piccola, perché tra poco dobbiamo chiudere. Ma non lo so, secondo me bisogna fare una distinzione tra identità e espressione, perché una cosa è l'identità, che io come io mi identifico con me stesso. Per esempio è molto chiaro nel mondo LGBT queer più, la differenza tra identità di genere e espressione di genere. Cioè io mi sento in un certo modo, però poi come lo esprimo agli altri è una cosa completamente diversa, può coincidere o non coincidere. E questo secondo me si applica anche a livello artistico, completamente. Volevo solo fare questo. Questo è un tema che ci ha un attimo lasciato così, pensierosi. No, no, no, invece è bene, bene lasciarci pensierosi. Nell'impossibilità di tirare le fila. Ma meno male, perché sennò li abbiamo finiti. Cioè, togliamo il telone, basta, andiamo, non lo so manco dove, perché lì è finito tutto. Vi ringrazio molto per questa chiacchierata. Ringrazio Valeria Caboi, Emanuele Piniero, Lea Barletti e Viana Paz, Wenzel e Federico Fuchs-Schwind. Ringrazio Maurizio Lampi, che coglie sempre con estrema solerzia gli spunti che gli lanciamo. E ringrazio tutte le persone che, nonostante questo sole di oggi, restano ad ascoltare tutti i miei svarioni, soprattutto, quindi grazie, ne parlerò in terapia, ne parlerò bene di voi in terapia. Ci vediamo domani e buon Altofest, a presto.